Antonello. Avanti chi chiama? Avanti chi è? Buongiorno. Ehi, ciao Giomari. Ebbè, come si va? Ebbè, tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. E dove sei, a casa o in campagna? No, in campagna sono. Mi sta arrivando un demonio, cazzo, 9.30 con picchi positivi. Oh, allora va bene. Oh, alla grande, Giomari, alla grande. Vabbè che noi siamo lì in aria, siamo vicini, non è che è proprio, hai capito? Che importante riesce a copiarmi quello, che la radio sia buona, tutto lì. No, ma infatti stavo provando a vedere un po' se funzionava ancora, siccome fare col tempo fermo questo qua. Ho capito Giovanni. No, ma stai arrivando abbastanza bene. Va bene, sì, dai, ci sentiamo magari più tardi che mi metti in movimento, sono a casa, ok? Ok, dai, faccia il Roger, ok. Ciao, ciao. Ciao, ciao Giovanni. Avanti, chi è? Beh, dice, tu sei, Leo G. Avanti, chi è? Beh, io sei. Ciao, Giovanni. Boccati, sono quando hai chiamato, avanti, chi c'è? Io ti ho detto, ciao, di sera, ma hai risposto. Perché c'era un'altra persona al telefono, ha capito? Come lei? Ah, ecco, c'era un'altra persona al telefono, ok, va bene. Avanti, tu, buonasera. Giomari, buonasera anche a te, tutto a posto. Che giù meglio così, lui, si alza così. A una certa età non è che puoi stare sempre bene, però gli altri sono un peggio di me, per cui tranquillo, dai, già sto più tranquillo oggi. Infatti, dai. Interessante stare, non dico ogni giorno bene, che purtroppo non si può, però se stai meglio, cioè se stai bene già va bene, dai. Poi se sono un giorno che stai male, pazienza, bisogna prenderla come viene. Ehi, amici, c'è Leoncino, Leoncino, lo senti a Luca? Mandalo avanti a vedere se riesco a copiarlo. Leoncino, mi senti? A parlare a vedere se lo senti. Leoncino, mi senti? Io lo sento a tratti, Giomari. No, non l'ho sentito, non lo copio, Giomari. Non ti sente, lui. Non ti sente. Ah, ti ancora parecchio, vai in campagna, ti sentivo bene, mio. Oh, Giuseppe. Già lo so. Ma te l'ho detto che linea d'aria eravamo vicini noi. Ma io sono in fossa, già lo so dove c'è la campagna, per cui ho visto che ci sono arrivato a casa tua e già va bene quell'antenna là. Già va bene, Giovanni. A voglia, ma arrivavi caso 9.30 più picchi positivi. Leoncino, mi senti adesso? Avanti Luca, buonasera. Dove sei? Io sono dove c'è a San Nicola, dove c'è l'ospizio di San Nicola. Dov'è San Nicola? Dove c'è l'ospizio, hai capito? Dopo San Pietro, dai. Oh, Giomari, non lo sento più. Ah, io ho capito, dove c'è l'ospizio di San Nicola. Deve essere a San Nicola, boh, una cosa del genere, così è Giuseppe. A San Pietro, nell'ospizio che c'è, andando per San Pietro, San Nicola. Ah, è San Pietro, lui. Ma quello di fronte alla chiesa, quello lì è. No, andando per la cosa, all'ufficio delle entrate. Ah, andando all'ufficio delle entrate, ho capito. Ah, lì sì. E qua sono, lì, perché ho accompagnato mia madre a fare visita a una signora e allora ho detto io, a me non mi fanno entrare, fanno entrare solo lì, a me no. Ah ecco, ah è quello spizio che c'è sopra gli anziani, quello lì è. Cappa. Ah, ho capito, dov'è infatti. E dopo l'università sotto San Pietro c'è un ospizio lì, dove sono gli anziani lì. Ho capito, d'accordo, vabbè, pensavo che era qua, cioè, prima lo sentivo benissimo, a seconda della zona. Guarda i disegni che fanno questi uccelli. Cioè, Mario, hai mai visto quegli uccelli che fanno tutti i disegni nell'aria? Sono tantissimi. Ma adesso ti sei spostato in più in basso, o ti sei allontanato? Ma chi io? Eia! Io sono sempre qua, Gio Marì. Sono in camera, da letto. Ma se vedi che stai allontanato il microfono ti sentivo più basso, capito? Ho detto, quegli uccelli li hai mai visti, quelli... Ora sono Marì. Non so che tipo di uccello sia. Che fanno i disegni in alto? Sono tantissimi. Ah, ho capito. Ho capito, avanti Giuseppe. Ehi, sono qua Gio Marì. In attesa che esca mia madre alle 6 e poi direzione in domo. Ma già ce l'hai la macchina ancora già? Sì che ce l'ho ancora, una ne ho, una. L'abbiamo fatta fuori, l'altra l'abbiamo fatta fuori, Gio Marì. Ah, ecco, quella là non ce l'hai più. Ma come, che macchina era? Aspetta, là. Avaro mi la metto a macchina era quella lì. La Ford Ka. Ah, infatti. Ah, non ce l'hai più quella lì. No, l'abbiamo rattamata. No, non si poteva, Gio Marì, pagare due assicurazioni. Poi, lo sai, nelle situazioni che sono, senza lavoro, senza niente, non si possono pagare due assicurazioni. Meglio una è poco. Ok, infatti, io. Perché sai, lavoro io. Avanti lui. Cos'hai combinato Luca oggi? Ma niente di che, Gio Marì, nulla. Nulla di che, dai. Dada, mi stavo preparando e stiamo così per uscire. Noi ci abbiamo fatto il diretto alla Brinco per stamattina con Luca. A prendere materiale per campagna e per qua. E per cui eravamo tutta la mattina in giro, là. Hai procurato quello... Le cravatte le hai procurate per l'antenna? Ho preso tutto. È già tutto pronto per salire, però fino che ho fatto tempo bello, no, ancora no. A tempo bello lo facciamo, quando non c'è aria, capito? Perché adesso c'è l'aria fredda e non sa che c'è il sole, e c'è aria fredda sul tetto, per cui non ci salgo io. Hai ragione, ci vuole tempo bello che non ci sia vento soprattutto. È giusto, ma tanto mi penso... i primi di marzo. Infatti, appena faccio un po' bello, andiamo la mattina presto e lo facciamo. Anzi, un paio d'ore ci fa tutto, penso io. Ho preso la cravatta un pezzo di bicchiere che lo saldiamo, e così che la scendiamo, che andiamo anche la corda, cambiamo, capito? C'ho tutto disponibile, pronto per fare il lavoro, capito? Aspetta Gio Marì, pari corsi, ma fa un'antenna, fa un'antenna, veni un di là e attiri la conto, ma ti rendi conto? Ma in quattro facciamo come vogliamo noi, non come fa l'antenna, capito? In quattro persone facciamo tutto quello che c'è da fare, lo sai. Anche se ci metti a 2 o 3 ore che se ne frega, il lavoro bisogna farlo, capito? Per cui... già lo sai, non ci sono problemi, Sì, ho detto però che l'antenna ha bisogno ogni tanto. E sembra così, è una spesa. Vabbè, adesso Gio Marì sicuro che se fai questo lavoro nuovo, chissà quanta gente si fa la antenna. È il problema adesso di quel bicchiere, perché il bicchiere è marcio, dove poggia il tubo, capito? Che quello dobbiamo ritagliare, litigarlo bene, portarlo a zero e ci saldiamo l'altro pezzo, e così che dopo ci arrivettiamo sopra, cosa vuoi fare? Però dobbiamo fare, non si può lasciare così, capito? Lo dobbiamo fare, lo facciamo, capito? Perché sa mai che ne cada giù, vabbè, cade giù non ne cade, ma perché c'è i tiranti, però si curica. Andava. Ok, avanti. E un attimo che sto spostando la macchina. Va bene, capito, per carità. La corda della Cerol, quella grossa, per cui facciamo un bel lavoro e che sono tranquillo. Io quando c'ho una cosa che non va bene mi rompe, per cui devo farla per forza. Così che per la mamma magari lasciamo così, però appena che fa tempo bello bisogna salire, la mattina e si fa, ecco, tutto lì. Bene, bene, bene, riprendi. Per forza, Gio Mari, non puoi, ho visto che è un po' storta anche. Oh, vabbè che ti ha tirato forte lì, abbastanza forte. Perché c'era vento qua, quando sono saliti a controllare le corde, e c'era molto vento e non riuscivano a mettere la pioppo, capito? Tutti che adesso diventa storta. Infatti ho detto, ero senza riuscire a drizzarla, prima era dritta e vai barriuccia. Cosa vuoi fare? Però c'era molto vento, freddo, e se non ci l'hanno legata così e basta. Cosa ci vuoi fare? Ormai finché non saliamo su di nuovo non l'ha dritto, Ma la vai tanti questi pure che si è barrizzuta. Infatti, ma lo stai usando il baracchino, no? Che lo sto accendendo, cazzo. Mi era poco acceso, però non c'era nessuno. E io accendo, quando accendo questo, accendo quello lì, capito? Tutti e due li accendi, è sempre acceso qua. Io accendo uno e l'altro. Per cui, se mi chiamano qua, parlo qua. Se mi chiamano là, parlo là. Capite com'è? Io ho tutti e due accesi. E qua l'ho dovuto staccare perché c'è la figlia di Marina che riguarda le ferie. Domani lo riattacco perché domani parte. Sì, l'ho dovuto staccare perché già lo lascio lì. Sai com'è, anche certe volte magari, essendo magari non proprio in casa tua, magari non è che puoi fare tutto ciò che vuoi, capito? Anche quello c'è da calcolare, capito lui? No, a casa è sempre attaccato, solo che non lo sto usando, sono sempre qua. Però è sempre spento adesso. Questa volta tengo acceso a fare, tanto non c'è nessuno in camera, sono solo io e basta. Io lo accendo, anche se non c'è nessuno lo accendo. Se chiama qualcuno rispondo, capito? La maggior parte è Pomponio, per cui intanto entra lui, così che un po' qua, un po' là, ammazzi tempo e nemmeno te ne accorgi, capito com'è? E sai, c'era qualcuno che stava chiamando, prova tu, io non lo sento. Luca, mi ascolti? Ehi, dimmi. Ma ascolti, Luca. Ehi, mi senti tu? Luca. So. Ma ascolti, Luca. Io lo so, prima lo sentivo bene, adesso no. Chiamalo, Giuseppe. Luca, mi ascolti? Eia, mi senti tu? Io già ti sento, e tu mi ascolti? Ehi, ti ascolto, a tratti ma ti ascolto. Chi è avanti? Sbuggio, Mari, lo sento a... No, non riesco a prendere la linea, dai. Purtroppo, sei in macchina, magari adesso sei spostato, lo senti a tratti. Lo sento a tratti a Luca. Ma è così, evidentemente c'è la posizione tua, Giuseppe. Sono in macchina, seduto in macchina, perché qua non riesco a prenderlo, Infatti, ma in macchina è così, capito? Poi il portatile è quello lì, no? Cappa. Basta muoversi poco a poco e magari sparisce la radio, perché purtroppo cosa devi fare? È così. Un attimino, Giovanni, mi assento. D'accordo. Vabbè, sei rientrato a casa, Giovanni? Sono arrivato a poco a casa, sono sceso a lavarmi la macchina. Ho sceso, perché me l'hanno tutta cagata qui. I piccioni, gatta, come si sedono lì, e i gabbiali, cazzo, sono sentiti, cazzo, li metto a mangiare, allora vengono tutti i piccioni, le corracchie e i gabbiali, cazzo, e sempre pieni, no, che mi hanno cagato tanta la macchina, allora sono dovuto scendere in campagna a lavarmela, speriamo che non mi sporchino di nuovo. Gio Mari, non lo sai che sono fatti così, questi uccelli sono fatti così, servono solo per sporcare tutto quanto, e anche il terrazzino era tutto pieno di cagate di uccelli e tutto a casa. È un macello, ma adesso è lucida, però vedrai che, perché anche volando quello fanno un cagano anche volando stesso, capito? Come volano una parte all'altra, fa la fine tutto sopra le macchine. Beh, è fatta così. Ecco, loro non si mettono come noi, cazzo, che andiamo in bagno. Loro, dove capita, fanno i loro bisogni. Ehi, ehi, Giuseppe, mi devo aspettare 10 minuti. Ok, ci sentiamo. Ciao, ciao, Giuseppe, dai, tanto sto andando via anch'io, dai. Sta uscendo adesso, dai, mia madre. Attenzione, Gian Maria. Te Maria. Signore. Sì, a Gian Maria. Fa un passaggio lungo. Sto da vedere, 1, 2, 3, prova. Hola, hola. Io ti sento perfettamente, come il solito, va benissimo. Fondo scala, la radio è 5, perfetta. Va bene tu? Sì, te l'ho detto io che andava bene. E anche così, eh. Oh, beh, io lo so che va bene, capito? Va bene tu. L'ho tolto perché c'ho l'altro più grande, capito? Ecco perché l'ho tolto. Però è nuovo lo stesso anche quello, capito? Infatti, non è brutto. Piccolino, sincero. Ciao a te, ciao a Mari. Oia, oia, esco la pie. Ma che facendo, c'è Tommito, eh. Sono rientrato, da. Ma che dici tu? Come to? Sì, che dici tu? Sì, tra un po', dai. Fai verso le 7, più o meno, neanche. Devi andare a circolare. Devo andare a mangiare. A te c'è Gio Marì. Ma lo sapevo, è l'ora sua a quest'ora, capito? Lui sta allattando, so. Lui sta allattando, si chiama città di mangiare più di noi. Dai, tu che lo fa? Io può permettere, giovanissimo. Noi che lo posso fare quanti voglio io, prima sì, to, ruba zio, a ruota di collo, ma poi, anch'io ho anche i miei 44 anni, non voglio più 20 anni, Alle 2 a brincare la presa contro un bugno, Luca. La prima era diversa, va, Gio Maria, è tutta altra cosa, capito? Ma non posso mangiare tutto. Sì, è proprio, cioè, poco, un po' di tutto, ma poco, un po'. Prima mangiavo e me la fuggivo, perché non avevo niente, stavo bene. Adesso quando cosa mangio mi vengono i dolori. Infatti, sai che devo affrontare devo fare un intervento. Mangia tu, mangia, cazzo, che almeno si ingrandisce la persona, cazzo, qua se non mangia uno, e oia, quando fai appetito bisogna mangiare, o no tu? Non credo che bisogna mangiare. Cazzo, una parola è stata mangiare, oia, sono di droghe da voi, cazzo. Bisogna mangiare, bisogna produrre anche, perché se non mangi non produrri. Allora, bisogna produrre. Eia, avanti, certo. Sì, caspita, è Luca. È vero. Vero. E cosa vuoi fare? Purtroppo è così. Gai, esti su con, tutore. Vabbè. Ecco. Chi è che c'è sotto? È carino, no, tu? Aspetta, me lo dici così? Niente. Ora cazzo io di fiammiferi, cazzo. Appena più mano, un pacchetto di sigarette in bari. E allora, cazzo, non si sono infratturati, no? Boh, vabbè. Cosa deve fare? Però va bene ugualmente, dai. Per quello che siamo noi. E viene pizza troppo, viene. Catta. Ristretto e tutto canto. ti ho mandato quella foto sullo scampo, visto l'hai? Sì che l'ho vista. Qual è quell'altro, quello che stai usando tu? No, questo è un altro, questo sto usando io, un'altra marca, capito? Ho compreso, sì, sì. A me è perfetto quella là, poi il nuovo, quello è nuovo, è stato esattamente la frequenza bassa, capito? Ho visto, sì. Va benissimo. Oh, quello c'ha l'eccezione, Oh, sicuro sì, meglio no. E infatti, basta guardare su, grazie sui B, basta aprire la pagina su computer o B. Un giorno mi metto a cercarlo. E la trovi subito, e a voglia. Per cui c'è tutto scritto, cosa, come faccio, come lo faccio, c'è tutto. Beh, qui davemmo. E qua si brecca, non si dice finito avete. Niente. Gandoro Giami, non intendi? Hai compreso? Gando vuoi, dove entra? Non sappiamo che è così lui, è fatto il rovescio lui. Capito? Se lo Giami non risponde, dopo lo Giami risponde, capito? Allora mi chiamo e alla zona. Lo diglielo tu. Dormito era. A me mi pare che l'ha preso a moglie, questo. Buonasera a tutti. Allora, cosa si dice, Luca? Sì, sto guardando questo video, questo qua. Adesso è una persona anziana, non lo so. Perde il controllo dell'auto e finisce nelle scale di un condominio a Sassari, via Sardegna. E se ci si nata la carinata? E la giumma è entrata tra appassamenti. Ehi, hey, hai visto quel video che ti ho mandato? È di relax. Sì, già l'ho visto. Ma quello lo sono morti d'infarto. Davvero me? Rilacciamo a Gianni Maria, riprendi. E allora, già se la faccio mettere i chiappi, chissà. Picchio là. Cazzo, che ci non si mangia. Fa un anno. Poveretto, cazzo, il sangue per la faccia che ti chiappi, cazzo. Cazzo, ora non vai. E la moglie, ella. Da bici mio li piace a curillo. A culo. Tore, riprendi. Aspetta, non lo so, sempre che le cose abbai di tu, non rimolli, no. Ma che Dio fa da te, tua moglie? Vai, chi c'è la masochista? Vieni la Gian Maria, dimmi Gian Maria. Magari cose del genere la si può vedere, dai, so. Cazzo, la moglie, se l'ha fatto scendere il pantalone, l'ha colcato sul tiro. Abbia un pizzaura piatta, ma grossa però. E chi non avrà mai scusato una di quantino più qualche allora, ha fatto le chiappi rosso come il peperone. Aspetta, che andiamo via, andiamo. Praticamente era un coso di relax, poi gli avevamo fatto il baule. Per carità, ma ti immagini da che punto, cazzo. Ti pare che oh, grazie, lui si fa di cocca in un lettino, ti pare il battaglio, ti fa di cocca a curinaccio e piglia lui batti i panni, ma se lo fatti vedo già. Non faccio con i convegni, anche con i bruciati, a rosano i secchi. Non è possibile, sto. Cazzo. Dici che era buio il burro, cazzo. Ma è domani, sta facendo un po' di vestito. Il sangue che l'ha fatto, mi chiamo. Vuoi che mia zia, fammi, faccio rifare così. Per carità. Ma chi c'è, sente? Ma chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi e allora, mi ne l'ho mandato uno a Luca adesso, relax, è andato a barrilassarsi e l'ha diventata, a un certo punto se gli sarebbe stata una caccia alla morto, da quelli l'ha riprendita la messa a bestiolucci, da giù mai non ha raggiunto un colpo. Sare sta, cari. Luca, quello era candy camera. Ti ho messo a bizzatto. E anche quello delle chiappe ti ho mandato l'altro giorno. Già l'ho visto. Stavo un attimino, già l'hanno suonato. Ehi, e allora Torre cosa ci racconti? Cosa vuoi che ti racconti, Nulla. Sei sempre venni, addenni, durrenni, assenti, parenti e non fai nulla da raccontare. Cosa ti devo raccontare? Non so cosa hai fatto, l'antenna nuova, cosa hai fatto? Oggi ero piacendo un capo, non ero coso né a radio di una macchina, ma mi pare che non va andare. Perché? Che è diverso. E di là Luca, che Luca se ne intende di più di te, di installazione di radio. Vero Luca? Cosa? Di installazioni di radio nelle vetture, già lo sai fare, sì? Sì, e lo sapevo, ho diploma. E dico a Tore, a chiederla a te, magari glielo piace a vettù. Non è le cose d'antenne né nulla, è soltanto il cavetto USB che va attaccato alla radio, però l'attacco è diverso. Devi procurare l'attacco per la radio o quello dell'interno della macchina? Dietro nella radio della macchina che ci va attaccato il cavetto con questo affare qua e non ci va bene. E beh, andi da Marcello, dalla macchina vecchia, glielo chiedi, ti dici vai ti datti il nido, già ti lo dazzi. O dalla macchina vecchia buttata, ne lo levi, a servizio. Ma ci mette un cavetto che non si acciappa in nessun luogo, si acciappa soltanto internet, si acciappa. Quindi io l'ho ordinato, ma non va bene l'attacco, hai capito? E beh, tu gliel'hai specificato bene quando l'hai ordinato l'attacco, Omega, non l'avrai visto. Il pinotto non va bene, è più stretto quello lì. Da loro dice che andava bene, invece non va bene. E allora non te lo cambiano. Già, guardate, non lo cambiano loro. Beh, magari viene la baracca anche il pinotto, Luca. No Luca di Ghisci. Cata, figuriamoci un po', non si acciappa manco in internet quasi. Però Luca. Luca, tu non hai di Ghisci. Ma dove è piazzato questo filo? Nella vettura oppure nella radio? Attaccato alla radio, c'è l'attacco USB, è compreso. Però non ci va bene. Ah, è la marca della radio, a rintracciare lei, dove la marca della radio. Magari lì ce l'hanno quell'attacco. Dovevi prendere l'altro attacco, dovevi prendere. Che l'altro è a spinotto, lo stesso davanti. Però ci va un'altra cosa anche attaccata, quindi non va bene. Ehi, sempre casino sono la radio di marca. Io ne avevo una nuova. Mi la viene battere, una di me alza e se la giù lampada, nuova mi. E ne ho una in garage, però quella la usavo, non la uso più adesso. Quando facevo qualche lavoretto in garage me la accendevo, stereo 7. Sotto, cosa ti serve? No, è per la radio della macchina mia che... L'unica cosa che devo fare più avanti, guardo di ordinarmelo. È tutto uno spinotto tutto particolare questo. Ah, così è. Ma già si trova in internet, vai. Prima di ordinarlo magari bisogna specificare com'è, come non è, capito? Infatti, no, l'ho già visto, però... Non so, questo che ho ordinato io credevo che andava bene, invece mi pare che no. Domani vi dovrò provare, vedete, ora ruzzi. Mi aspetto 10 minuti, mi faccio la barba, là, se no domani è più lunga. Riprendetevela. Sì, aspetta che vengo io con il rastrello, trovo su io. No, siccome si mette a pugnetti, mi dà fastidio. Faccio che do un rastrello automatico, mi, che funziona a raggiura. Fari. Come? Sì, catta. Grazie a Gitto che faccio un rastrello che funziona a raggiura, battaglia la vai, ma non vu. Ah, è facile, allora. Aspetta, da faccio la vai, vai. Ah, se va, si può far peggio, a vedere se riesce a convincere e saluti. Catta, bubù. E allora, certo. Se poi siamo imbragliati qui sul cimitino, gatta. Se per intragli, gatta. Ma va, dove finisce così, no? Oia. È andato a farci la vibe, ma va, non rispondi. Oh, l'attimino si è usato, bene fatto. A me arrivi bene. C'è a fondo scala, la radio è buona. Cavola fuori. Ah, tu lo devi far trovare. Va bene, scherza. Cavola fuori. Signor Battisio mi, buonasera. Ma in macchina sì? No, a casa solo tu. A casa sì, ah. Allora, Andi. Beh, sta funzionando questa la radio, buona Con le portate sì è buona, con le portate va benissimo. Buonasera Gian Maria, buonasera creatore, scusate, sono andato prima. Con le patate va benissimo to. Forno o fritte? Buona, con le patate va bene. Va bene. Bubù. E te sei Gian Maria? Ma lo so io, capito. Lo sapevo, capito. C'era dietro, c'era piccolina. Infatti, c'è la piccolina. Non ci sono problemi, ma lo so che va bene, so. Già l'ho fatta sera, Però è calda da rido, Scalda un pochino dietro. Capito. Dietro, scalda un pochino. E beh, Giomarì, mi senti bene adesso? Adesso ti sento bene, Giuseppe. Sono a casa, con antenna centrale. Quelle che ho io non scaldano per niente. Oh, questo scalda un pochino, scalda. Infatti si accende la ventola raggiura, si intendi? Non c'è niente, tranquillo. Pensa a te la usalo quando vuoi. Quanto vuoi? Domani te lo riporto. Eia. Bene, Giuseppe, allora senti attore. Giuseppe, che aiutare. Bacchisio qua, pronto. Giuseppe, vediamo se ascolta me, Giuseppe, Bacchisio, avanti. No, ma piazza, la veloce, Bacchisio. Forse invece di aumentarlo questa radio ho trovato di abbassarlo. È un po' di costituente a aumentare la voce. Se non trovo il secondo, non so. Chi? Guarda che c'è il coso che fa minimo, medio e massimo. Ho tutto, non l'ho trovato Giuseppe. Bisogna che attaccare un mio e guardare, a vedere com'è. Ho passato il telefono a Luca ti dice come fare, perché lui ce l'ha preciso, vai. Perché l'ha fatto lui, vai. Anch'io lo trovo, se lo attacco il mio lo trovo io, mi. Domani mattina ci provo a vedere. E probabilmente fatti, bisogna cercarlo, se no come fai? Bisogna aumentarlo per forza, capito? Certo, lo so, vedi che puoi fare la tua, puoi fare la tua pure. Io l'avevo messo già al massimo, Tu vai, tu va bene ugualmente, capito? Il tuo va bene, quello è Bacchiglio, Mi sono spostato il menù, c'è un casotto. Adesso voglio provare un'altra postazione, vedere un po' cosa dice. Boh, vedo un po' tu Bacchi. Cerca. Chi cerca trova. Chi cerca trova. Sergio Marì, aspetta che sto leggendo il coso di quell'apparato là. Di quello che c'ho io, a vedere se riesco a trovarlo. Sì. Chiama quando hai finito. Ehi. E adesso cosa sta uscendo? Prima a te, sì, Bacchi. Lo sai perché ti sei avvicinato al microfono vicino? Ho cambiato per 3-2 ho messo. Aspetta che mi sto facendo gli spruzzi che mi è giunto la panno e 10 minuti mi faccio la barba. Andava, e tanto la posta stiamo uscendo noi. Ma sia bello che stai facendo, però che fai il colpo Ma cosa, mi è giunto un colpo da panno. Mi raccomando poi profumati pure uscendo con Jean-Marie. Devi essere una bella cosa che ti affanno Ciao Bacchi. Ciao Luca, buonasera. Già mi ascolti adesso, sto frugando. Perfetto. Migliorato o migliorato? No, ti ascolto bene Bacchi, perfetto, no, arrivi benissimo, fondo scala e radio 5, dai. Stavo frugando nel menù per aumentare, non si sa. Tore! Aumentato, appena aumentato, ma poca roba, Bacchi. Allora devo ancora frugare. Cerca, Bacchi. Gio Marini, pensiamo se affendi Betto, che di bicicchia l'ultimo, anda a badà. Cosa fai tu? Ho detto, Graziano deve uscire stasera. Andare a ballare. Davvero? Allora per quello che sta facendo la barba. Lo sai che alle donne piace lo sbarbato, io ho la barba. Non barboni come me. Prima la fedi a molle con l'acqua, capito? Adesso si sta facendo bello, si è rasato, capito? Ma la luce a parte se l'hai grazia. Ma Maria adesso lo sente. Lo sento, ma chi? Ma la so, se vai trovalo tu. Aspetta, sta guardando il dottore e depriamo un po' come la situazione. L'altro è a minimo. Perché c'ha tre cose già in tre pizzi. Mi sembra siano due. Quattro e otto mi sembra. Mi sembra che siano così. A quanto mi ricordo, perché una volta anch'io così, capito? Non mi ricordo bene io, E adesso che fai, Giovanni? Ma facendo uno? Guarda adesso, 1, 2, 3? No, ma chi è sempre lo stesso? Tutti li ho frugati, PDT, PDTA, FotoTV, e... Se uno non sa dove mettere le mani, per andare al buio. Certo, dove si arriva a fondo scala qua, perché non siamo lontani, può variare il segnale, può variare secondo la posizione che c'è dell'antenna, allora la radio ci deve sentire, cara, come? Dove sta a me, si fa calma. Sì, ma è la radio questa che non va, se metto il portatile aumenta. Sei vicinissimo, capito? Forse per quello. Io sì, con Luca siamo vicinissimi. Vedi che con questo adesso cambia. No, negativo. Neanche con questo adesso mi ascolti. È lo stesso, va. Adesso mi è sopportabile. Non è forte. C'è già di quell'altro, però... forse la voce tua lo dica anche tu. No, perché ti sento pochissimo, non lo so, calparizio io magari, forse anche quello, Beh, dai, signori, io vi saluto. Comando lui, facci piano, tranquillo, ciao, ci senti, ma ti sta credendo Luca. Ciao Luca, stammi bene. E beh, trovato l'esso. L'ingresso non è che non mi atteggio assai io, ma che se lo dice ne ho riso a ciappallo. Aspetta. Ma che tutti i grandi sotto me. sono due di niente, in mezzo ci sono le tre cose, ragazzi, è abbastanza in grande. Io mi ricordo che era così, c'erano le vocali scritte. Se vai a ciappare in occhi. Boh. Aspetta un attimino che chiama Luca. Boh. Signor Bacchi. Sta Gianmarie. Adesso sta cercando l'apparecchio e tra lui, perché lui ce l'ha preciso, che gliel'avevo dato io. Me lo stavo dicendo, ma io non mi ricordo come capo, però adesso cerca l'apparecchio, lo accende e ve lo dice lui come fare, capito? Lo dice a Bacchisio, io già ce l'ho già fatto, io ce l'ho. Quindi lo dice a Bacchisio direttamente. E già entra qua fra poco, vai. Perché non gli hai detto tutto, ore? Sì, non me l'ha mento, non me lo ricordo più. Se è lo stesso apparecchio che sto dicendo io, deve andare nel menu alla voce numero 30. Voce numero 30. Attenzione, Bacchisio. Menu, nella M, c'è la M, no, dell'apparecchio. Schiaccia lì e scorre fino a 30, la voce numero 30. C'è scritto power alta o bassa, non è che capito, non è che c'è la regolazione, no, o è alta o è bassa. Infatti, no, ma sono tre cose, sono, c'è scritto medio o c'è scritto bassa, media o alta. E allora è un altro apparecchio, non è lo stesso. Sì, io mi metto che era così. E vabbè, sul 30 è. Bacchisio! Dipende che apparecchio è, io non lo so di che apparecchio state parlando, a me Gio Maria mi ha detto questo qua, è di questo che ti sto parlando. Basta che Bacchisio mi dica che modello sta dicendo. È come quello che ho io, Attenzione, dove? Su WhatsApp, se è uguale, mandamelo su WhatsApp, così ti dico se è uguale. Se è uguale, come quello che c'hai tu ce l'ho io, e ce l'ha anche Bacchisio. Attento, Tore. Sì, ma guarda che c'è Luca, per andare sul 30. Sul 30? Sì, sul 30. Aspetta che provo. Premi la M e poi ti sposti dove ci sono i canali, con le frecce dei canali, al menu numero 30. Sul 30 e cerco i canali. No, col più e meno dei canali ti devi spostare, fino a trovare il menu 30. Tore, guarda, ti ho mandato la foto. Sì, sono arrivato sul 30. Poi, Luca, dove devo andare? Niente, c'è scritto alta o bassa. C'è scritto power, vedi? E poi regoli alta o bassa. E poi di nuovo menu per confermare. E dove regoli alto e basso, più e meno? Sempre quelli, sì. C'è scritto height e bassa, alta e bassa c'è scritto, una cosa del genere. Qua esci solo, menu 30. Poi per aumentare cosa devo fare? Entra nel menu 30, prima ci devi entrare. E come fai a entrarci? Mi cancella tutto? C'ho la cappanello! No, nel menu 30, poi premi di nuovo menu. Io. Hai fatto, quando sei nel menu 30 premi di nuovo M e con i pulsanti dei canali fai alta o bassa. Aspetta che non mi vuole dare neanche il menu più, che mi ha messo il lucchetto. È come quello che ho io, e così ce l'ha Bacchisio. È facilissimo, capito. Se tieni premuto ti mette il blocco per forza. Tieni premuto il menu, che già te ne esce il blocco. E beh, Archimede! Oh, subito Rogorico! Architettato! Lui! Mi sembra da Marcello, ti prende uno di quegli affari che ho io, già bucherellato, appena entri dal cancello sulla destra lo vedi lì per terra. Grazie. Già in acciaio, tutto bucato, già pronto. Già l'hai portato a Eia. L'ho visto l'altro giorno quando siamo andati con Gian Maria a prendere dei pizzi. Appena entri dal cancello lì, andando sull'ufficio, lì per terra, sulla destra, appena entri dal cancello, e lì, in acciaio, inox, già pronto, già bucato. Era di quelle pentole che hanno lo scotch e pasta, quelli lì già integrati. Ma grande, no? No, già va bene, almeno credo che contenga 2,5 kg, forse di più. Oh, ma domani è sarrato. Siete già pronti, in acciaio. Mi pone una maneccia o due manecce se appoggio. E lunedì ci passa a vedere. Domani è 15. Domani è 15. Beh, Bacchicci, sei riuscito? Bacchicci, sei riuscito, sì, sì. Quello che scappa lo sbatto a terra, quando fuori lui mi dà il menù, quando fuori non le dà più. Boh. Dimmi il pulsante menù, per forza te lo deve dare il menù. Non è che per sbaglio hai inserito il blocco, no? Per dire, io ce l'ho il blocco, però lo so, me lo levo quando devo furruggiare. E Luca dove è andato, Gian Mario? Luca dove è andato, manicomio? Oh, chi ci si fa in mano con i bici al metro con patatine e la bionda? Aspetta, lui che vada a prendere il portatile, almeno ci vado. Ti informiamo più bene cosa stai facendo, fai così. E Torre, non c'è? Ah, tu sia di tu. Ah, già bisese, già. Ma credia che non bisese. E al cagnolino da dove la magna? Se si magna pure a te oggi si magna. Quando li cocci gli avrò di qui, ha codito un mozzo. Non me ne va di parolacci. Che è una scena che c'ho. Andemmo e andemmo. Comunque quei cani non ci sono più in zona, non l'hanno più visto tutti girare buccate. Sono su al canile, su a... salendo sulla strada di Usilo. Già lo so quel canile. Però l'altro giorno è passato un signore con uno di quei cani marroni e la bitorra bianca. Mi sembrava uno di quelli. Magari ce l'ha figliato al canile, uno. E quelli sono nel canile, sono... Se vuoi andare a ciappasso in chibi. Oh. E da voi ogni tanto vengono cani miei, i nocchi. Mi aspetta che sto accendendo adesso. Capita, ma chi c'è come te la gioca, una giochitta. Dove? Sarò va, che se no da voi si arrabbieggia. Dai, adesso sono Power, dimmi cosa devo fare. Luca. Luca sta caricando la sua pelle, te. Bacchi, riuscito ci sei. Bacchisio. Bacchisio. La cadena si fa. Ah, t'arrate di rispondere, Bacchisio, boh. Sta giusto che è una giochitta. Cazzo. Boh. No, cioè voltini con prosciutto e piedini d'agnello. Oh Luca, l'hai visto quello che voleva leccare i piedi che ti ho mandato? Luca ha copiato da Ghis. Allora, 30 euro fatti a gatti di volti, ti date 30 euro e 50 ballingitti di beni. Non te l'ho mandata a te Gian Maria, te lo mando. No, è un maco, chi ti paga ballingitti di beni. Deve fare questo lavoro, signor. Ma chi, signor, vai che non sei uscito. Non ci parlate sopra, non capisco. Ma chi? Non mi vuole dare questo. Nulla. Resettalo, vedrai che si riprende. Sarà difettoso, basta resettarlo, magari si riprende. E io non lo so, Giovanni, tu. No, me lo devo avvicinare, glielo resetto, Si prova a resettare, a vedere un po' male. Però poi non riesce a fare. Per me è arabo, per me è arabo. Io parlo italiano e sassarese. Ma ci sono riuscito, no, signor Bacchi? Mari, quando mi hai chiamato ero al telefono, ero. Quando hai chiamato ero al telefono. Che l'ascolto io. A voglia se l'ascolto, anche a Luca. Boh, non lo so come l'abbia impostato. Il menù mi sta rompendo le scatole, si accende e si spegne subito. Pettanello premuto! Hai già fatto le buche interne pure, premendo. Ah, cosa fai? Un ciodo mai attaccato. Porca miseria, che una puttana mi dà questa roba. Quando non funziona, sai come mi chiamo le balle? Niente, va, che avvedimmo. Allora, dimmi, Luca. Allora, sono 30, meno 30, poi... Senta, Giomari, che sto accendendo questo che ho io. Sole. Aspetta un attimo, Bacchi, che provo con il mio. Ebbe! Ebbe tu. Ehi, vedi un po'. Ma adesso sono supero, sono con l'altra antenna, è sempre normale, non ho fatto niente. Dimmi, lo sto cercando il cavo d'alimentazione, non riesce a ciapparlo. L'alimentazione, no? Non riesco a trovarmi il cavo d'alimentazione suo. Lo c'ho io, quello che c'ho io senza alimentazione non funziona. Non mi ammetto di essere a giubbuccio. No, dimmi la situazione com'è, te la ricordi? Io non me la ricordo più, mi sono incavolato. Sì, ma ripeto, sono su dove ho tutta l'attrezzatura. Non sono giù in casa, capito? Sono con l'antenna grande adesso. Va a parlare, Bacchi. Vedi un po'. Adesso sei a fondo scala proprio. Sì, ma ripeto, sono con l'antenna grande. E accorciato al minimo 20 metri di cavo. Oh? Non so che dirti. Il menù, non lo so come sia. Non ci sono riuscito, non mi ricordo un H. Aspetta un attimino e poi vediamo. E aspetta che cambio antenna, metto l'antennino a vedere un po' come mi ascolti. Adesso sei più basso. Di segnale e di radio. Adesso sei più basso, sia di segnale che di radio. Vedi, adesso è ritornato come poco fa. Dove? Ma c'è Bacchi. Adesso come poco fa. Adesso come poco fa, con l'antenna grande. Eia, ha cambiato? Si è a fondo scala adesso. È più forte di radio anche. Ecco qua. Con quello va bene. Allora, non è la radio, è l'antenna che non funziona. Calmo. Mi sentivi con la grazia? Niente, sì. Con questa? Con questa è una bomba. Ok, dai. Questa è l'antenna grande però. Allora c'è qualcosa in cavo. C'è qualcosa nel cavo. Sicuramente. Io non ho sentito il vettore, ti rispondeva che ti sentiva a basso, però ti sentiva io niente. No, no, c'è qualcosa nel cavo. E di giorno bisogna controllare, domani. Di giorno controllo. Adesso questa è l'antenna grande. Anda bene, vedo, da. Prova a controllare il cavo o cambia lo spezzone, non lo so com'è. Ci saranno uno spezzone da 15 metri e quello che viene dall'antenna viene qua dentro, da qui riesce e va giù. Ci saranno 30-40 metri del cavo. Ma ci sarà un deviatore? No, che cosa? I barilotti ci sono. È collegato col barilotto. Niente di strano che si sia allentato un barilotto, perché io qua nello spezzone c'ho il barilotto. L'altro giorno che sono salito sopra il pisile qua a guardare dove c'ho la ventola, l'ho toccato ed era allentato il barilotto. Non ho capito come ha fatto a allentarsi. E allora l'ho stretto. Ma sì, anche il barilotto, perché... In quel cavo barilotto ce ne sono due, ce ne sono, sono in tre spezzoni il cavo, capito? No, io ne ho messo uno, ma è provvisorio, a tempo buono mi giambo tutto il vino, lo metto unico. Però io non ho capito come ha fatto allinarsi, era mollato, non era stretto. Sa, muovendo il cavo, cosa del genere, si è mollato. No, cambio il cavo, metto il cavo nuovo, tutto intero. Così cosa faccio? Solo ci metto un commutatore qua su, il commuto e via, invece di stare lì a svitare, a vitare. E allora, fai prima e tutto. Io infatti adesso, quando fa tempo buono, mi metto il commutatore perché lo adopero in terrazza in estate e qualche volta qua in cucina mi metto, capito? O se no me lo adopero in terrazzo, commuto e parlo dal terrazzo. No, perché da giù, Gio Maria mi sente basso, Tori mi sente basso, solo Marino mi sente forte. Però non vanno i veri, non andano i veri barilotti, non ti credere, ma sì, puoi esibire per una cosa provvisoria. L'altro giorno sto guardando su internet per farmi arrivare un paio di barilotti e qualche PL. Il consiglio di un radioamatore che dava consigli sulle antenne, non mettere barilotto, per mettere barilotto diceva aggiungere il cavo, saldarlo e innastrarlo bene, ed è l'unica soluzione che si può riavere. Grazie, Gio Maria, dimmi. Adesso va bene, la radio è... Ma solo ripeto, con l'antenna grande, sono su in soffitta e ci mancano 30 metri di cavo per arrivare giù. Allora l'antenna, secondo me. Il cavo o l'antenna, uno dei due, ma io penso sia più il cavo che sia mollato al PL dell'antenna. È una cosa strana. Sì, non ci sono riuscito. Ma chi? L'unica cosa da fare è saldarli come ho saldato io, senza mettere barilotti. Sì, il radioamatore mi ha detto così, su internet. Saldare senza barilotto, non ci sono dispersioni. E così ho fatto io qua, quando me l'ha tagliato il cane, quando me li ha tagliati. Li ho saldati e messi isolati e messi fatti bene. Con il nastro che c'ho io, fatta cosa proprio, fatto bene. Ah, no, no, non è nessuna dispersione. Oh no, letto su internet, consiglio di amatori, non mettere barilotti perché si perdono dai 2 ai 3 decibel di guadagno. Ed è dunque saldare è l'unica cosa, l'unica soluzione, è innastrare perfettamente bene. Sì, io ci ho messo il nastro vulcanizzato, ci ho messo lì, nelle cose, dove ho fatto le saldature, prima una e poi l'altra saldatura sopra. E li ho isolati bene i cavi. E quella qua è una restringente, so. Esistono quella qua è ma sono tanti che li come cambiare il nastro vulcanizzante, anzi, le pare più perfetto pure. Oppure mette quella se ce li hai, se no te le do io quei pezzi. Perché io che non ha questo ne ho qua? Adesso va chi? Ehi, infatti stavo cambiando l'antenna adesso, a vedere un po'. Ma infatti, io li ho saldati così, funziona, ma questo. Ma chi? È più bassa di segnale, è di parecchio. Sparito, Infatti, sei molto di segnale, sei molto basso. Santiago 8 mi dai a me, invece che dai a fondo scala. Io ripeto, solo col cavo dove si stia uscendo, sia solo il cavo, perché... è impossibile che no, andava sempre a bomba con l'antenna. E l'unica cosa è, ma chi, invece di mettere barilotti, saldarlo bene come ho fatto io me li sono saldati i fili e non perdono nessuna dispersione ciò. Bisogna che sistemi un po' tutto di giorno, ma sono sicuro che si è mollato le cose, il PL in antenna. Al 100%, a quel vento dell'altra volta, perché dal giorno del vento sto andando a rotoli. Poi aiuto, domani lo possiamo fare. Oh, domani niente, domani c'ho da fare. Domani sono in campagna, poi non mi posso piegare. Sono in valido al 100%, to. E dal giardà, è coso, te lo posso fare io, le saldature e poi metterci la guaina restringente. Quel cavo lo cambio, non lo aggiungo più. Quel cavo lo cambio tutto, lo metto nuovo e così elimino un paio di barilotti. Se metti il cavo direttamente fai prima. E anche più sicuro, perché questo cavo è vecchio, è stravecchio. questo spezzone qua è nuovo, quello che arriva l'antenna grande, però l'altro è tutto il capo che c'avevo. Allora fai così, cambia il capo direttamente. Te lo ordini da internet il capo, impaggio di libri ai nostri. Anda grande che mi l'hai in busciacca, grande cosa, nel Tonino, e il capo ce l'hai, quello della CTE. Ah, è già andato a te. E già mi fa lo sconto Tonino, l'altra volta mi ha fatto lo sconto, e stavolta quando ci vado dico guarda mi ha mandato tuo cugino a farmi lo sconto. Ehi, ehi, a dire che ti ho mandato io. Ti mi fate pagare di più. No. No, ci sono a me, no, Graziano, mi dai nulla a me. Sì, ti ho mandato Graziano, se costa 100 te la fa pagare 200. Sì. Cacci tu sei tu, cacci riposo io. Sentito. Alla gente sei mezzo zoppo sei oggi. L'ha giudito, inteso mai, ditele che me l'ha mandato io. Già Maria, ma qua, ci deve da essere portato, deve da essere che ha girato rubedo, ha girato. Sì, ma non è che ha girato rubedo, no. Sono andato a aprire la porta, capito Miani? Miani su un altro, sono andato a aprire. Eccomi qua, eccomi qua. Ah, ti tira che sta voce, ragazzo, che sono partito un cazzo. Non è nata una vecchia. Ehi, dai fino allo bovaro. Ma lei pare un pizzo di appunto. E questo sì, questo. Vino che sopra però sta freddo ancora. Signor Bacchi, che tu travaglio devi fare? Se vuoi lavorare da casa. Ehi, ehi, ehi, quest'estate la sistemiamo quella roba. Quando tempo buono ne straccio tutti quei cavi che scendono giù e li metto tutti nuovi. Mi sono cavi, uno mi sembra l'RG8, l'RG8 se non c'è 30 anni, oppure 40. Mia Giammari, cazzo, non te lo so spiegare quello, no? Invece dipende da come ti sono fatti in fabbrica e... Dipende da come li fanno in fabbrica, ecco cosa è. Che molte volte si rovinano anche, togliendo, facendo, si rovinano. Dicevo quattro marinotti e quattro schierati. Ah, quattro. L'altro giorno su compra e vendo, vedi, due gaccetti, due scatole di cartone. PL c'erano, quelli a L, insomma, tutti gli attacchi di baracchino. E li stavano vendendo così, a blocco, un tipo di Porto Torres, due cattoli in avia, due cattoli manni di gaccioni. Adesso non mi ricordo il nome, eppure mi bariaghiggio, mi baviare un baracchino, mi baviare un circolo. Il nome non mi viene a va. Dai signori, io chiudo. Vi saluto, augurandovi ancora buon QSO. Ciao Tore, ciao Giammaria, ciao Graziano, e ciao anche a Luca se sei ancora all'ascolto. Bacchisio, chiude e ascolta il finalino. Bye bye. Ehi, ehi, ci sentiamo Giammaria. Grazie per ora. A domani, se tutto coincide, Bacchisio in QRT. Bye bye. Riprendi ancora Giammaria tua e saluta gli amici. Ciao Bacchisio, alla prossima. Che coincide, buona cena, buon tutto, vai Tore senza motore. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime. Il tuo sto adoperando. Oh, a dare due e buttendi. Sapete che si intende? Si sente che tu fruscio. Sì, sì, e c'è bene, bello forte. Anche quello che ho io, c'è la ventolina dietro. Quando scalda si accende automaticamente. Però io, dato che ho quell'alimentatore con la ventola, gli metto anche quella dietro e due secondi mi lunghi accende. Accendo anche quella. L'opposizione giù dalla rete e me le fredda su tutto. Non la sapete, ma... Beh, ragazzi, io chiudo, dammi un babbo l'insulina. Ce la sentiamo domani se coincide. Ciao Gianmaria, ciao Tore, e ciao agli ascoltori, riprendi e vado, ciao Giovanni. Ok, ciao, grazie, ci sentiamo, a domani. Ciao, ciao. Ok, ci sentiamo allora, Gian Maria. Dai, non fa nulla. Ci sentiamo a domani allora. Ok, ciao Gian Maria. Ok.